con Maria Paola Canepa per presentare la pericena letterario Spazi per i libri con gente di Dublino di James Joyce a Roma, al Centro Culturale Artemia, lunedì 25 febbraio 2019. Maria Paola, ben trovata. Ciao, come stai Federico? Grazie di questa bellissima opportunità. Grazie mille. Presentiamo Spazi per i libri. Questa è una bellissima iniziativa, credo, penso, spero, che è un apericena letterario. Semplicemente gente appassionata di letteratura e di lettura, ma in un modo molto soft, molto tranquillo, anche che abbia voglia di incontrarsi, magari passare una bella serata stimolante e magari, non so, in compagnia di amici o di nuovi amici. Pixil o chiamatelo come volete, perché sarebbe PXIL, che sarebbe Passi per i Libri. È un'iniziativa molto bella condotta da Francesca Ripanti, una laureata in lettere, amante dei libri. Diciamo, questa iniziativa va avanti, nasce, diciamo, a casa sua, tra amici. E piano piano è iniziato ad ingrandirsi a macchia d'olio e avevano bisogno di una casa un po' più grande. E io sono felicissima che abbiano scelto noi, il Centro Culturale Artemia, perché combacia benissimo con le nostre attività. Siamo un centro culturale vero, facciamo tutte attività culturali ed artistiche e quindi sono onorata di questo evento che si tiene questa sera, in realtà, alle 20:30. Senti, da voi quando è cominciato? Inizia oggi, oggi è il Ah, oggi è il primo primo, appuntamento. oggi è il primo Ah. appuntamento, già ci sono una bella 17 persone prenotate, quindi sarà una bella serata, sarà una bellissima serata. Francesca, ogni appuntamento si parla, diciamo, del libro che ha consigliato l'appuntamento precedente, in questo caso Gente di Dublino di James Joyce, come hai detto bene te, e chi lo legge, chi non ci arriva a leggerlo intero, però se ne parla, e chi non l'ha mai letto viene, ascolta, interviene e se ne parla tra amici. Ma di letteratura, l'argomento è questo oggi. Quindi una bella seratina, diciamo. Senti, quando è cominciato invece nelle case questo appuntamento? Da quanto va? È da un anno che va avanti, è da un anno e si fa una volta al mese e da adesso si farà da noi una volta al mese. Ci incontreremo sempre di lunedì sera per iniziare la settimana belli carichi e belli leggeri e niente, in allegria anche. L'idea è pure avvicinare la gente a mondi che magari qualcuno può pensare lontani o troppo chiusi, invece no, noi facciamo la pericena letteraria che inizia oggi, noi però già facevamo delle serate letterarie, abbiamo fatto tantissime, ma tanto per farti un esempio, noi facciamo anche l'aperitivo, l'opera di Time, che è un tè dove si parla d'opera, ma in modo molto leggero, divertente, ma molto molto interessante. Quindi l'idea nostra è appunto questa, avvicinare l'arte e la cultura a tutti, perché la cultura e l'arte è di tutti, non è soltanto di un certo tipo di persone, una certa nicchia, no, è di tutti. Quindi eccoci qua. Quindi ad ogni incontro si sceglie tutti insieme anche il libro per l'incontro successivo un mese dopo. Esatto, Francesca Ripanti che è chi conduce la serata e lei, che si studia molto bene, si prepara molto bene, sceglie in base alla dinamica e l'energia che si è creata nel gruppo dei libri che consiglia di leggere e poi dopo per parlarne e discuterne, raccontare le sensazioni che ha dato a ognuno e di questo si tratta, è un gruppo di lettura fondamentalmente. Ecco, come si svolge l'incontro? Come si affronta il libro? Allora, guarda, l'incontro è molto easy, molto tranquillo, ti ripeto, la sensazione è salotto di casa. C'è questa pericena, la gente, perché alle 20:30 di lunedì uno arriva stanco e affamato, quindi arriva, ci sarà il buffet. Ognuno si prende il suo piattino, si prende da bere, si accomoda nel salotto, chi si conosce con chi non è la prima volta che arriva e si incomincia a chiacchierare. E Francesca incomincia a dare degli input riguardo riguardo il libro, e da questi input inizia proprio la dinamica del gruppo, si inizia a chiacchierare come veramente come si farebbe in una cena tra amici. Così. Bene. Ti tutti i riferimenti web per le informazioni? Certo, allora potete trovare tutte le info sul nostro sito, che tra l'altro ha una nuova faccia da qualche giorno, ha debuttato sul web la nuova immagine coordinata, quindi il sito è www.centroculturaleartemia.org. Poi siamo anche su Facebook, Facebook, la pagina del Centro Culturale Artemia, ma anche su Instagram, sempre a nome Centro Culturale Artemia. Ci trovate dappertutto in pratica. Bene, allora ricordiamo il primo appuntamento della pericena letterario mensile Pazzi per i libri. Io lo chiamo Big Seal. Big Seal sul libro Gente di Dublino di James Joyce a Roma, al Centro Culturale Artemia, lunedì 25 febbraio 2019. Maria Paola, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, un bacione grande, grazie